E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Guardando i film e i telefilm che vanno in questi ultimi anni, mi sembra che i mestieri più avventurosi, i mestieri degli eroi, siano tipo il medico, l'investigatore, il prete investigatore, il medico investigatore, il medico prete. C'è un mestiere, c'è un settore, una figura che non si racconta più al cinema e in televisione, ed è quella del marinaio. Ma nonostante questo, il marinaio è sempre una figura leggendaria. Perché il marinaio è un eroe, è un furbo, è uno che la sa lunga, è uno che ha una donna in ogni porto ma sa anche stare da solo, uno che è un pirata ma è anche un po' un signore, uno che fa un lavoro duro ma vede dei posti meravigliosi. E allora noi ci stiamo accorgendo che c'è un sacco di gente che per cambiare vita vorrebbe andare in mare, vorrebbe fare il marinaio. E però la domanda è: se uno comincia da giovane è un conto, ma se uno fa un'altra cosa è condannato a fare solo il navigatore della domenica, oppure a un certo punto può dire: sai che c'è, io mi imbarco e parto. Se avete l'idea di fare i marinai, se l'avete fatto, se ci state provando, o se quello del marinaio è il vostro piano B, 800 24 00 24. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga. Che poi andare per mare, cambiare vita, fare il marinaio, può voler dire tante cose: che lavori sulle barche, che ce l'hai tu, che trasporti, magari non quello che trasportava Verdone, che non trasportava perché era tutto finto, nel film Borotalco. Vabbè, ditecelo voi, 800 24 00 24, oppure su Facebook, la nostra pagina che si chiama come il nostro programma Giro di Vita. Questo è il programma che ogni giorno su Radio 24 vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio. Io sono Achille Corea e oggi proviamo ad andare per mare con chi l'ha fatto, chi ci sta provando, con chi lo fa per mestiere, con chi ne vede tanti. Ma cominciamo da una persona che ci ha scritto una bella email in cui ci ha raccontato lungamente la sua storia, e siccome ci sembrava una storia molto significativa l'abbiamo chiamato. Massimo, benvenuto. Grazie, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Allora Massimo, partiamo da una cosa, perché a me è piaciuto molto questo passaggio della tua mail, il tuo cambio di vita in cui tu sei passato da imprenditore a uomo che va per mare è iniziato con una storia un po' brutta, con un brutto episodio. Sì, io sono stato imprenditore per circa 15 anni, prima era un dipendente, un dirigente di una grande azienda, e sono sempre stato nel campo dell'informatica. Diciamo che a un certo punto uno dei miei soci, insomma, ha subito una truffa, e questo mi ha dato un colpo molto forte all'azienda, quindi nonostante abbia poi allontanato questa persona dall'azienda, diciamo che il danno è stato irreparabile, quindi nel giro di un paio d'anni ho dovuto poi progressivamente chiudere tutte quante le attività, e fino a 4 anni fa, nel settembre 2006, ho chiuso l'ultima attività, proprio serrato la porta del mio ultimo ufficio, e sono rimasto senza lavoro. Ecco, questo è quel momento della vita in cui uno deve dire: che faccio? Mollo tutto, mi butto giù, riparto nel fare il mio mestiere, quindi ricomincio a fare l'imprenditore, oppure cambio completamente vita? E tu hai scelto di cambiare vita? Sì, io quando ho chiuso quella porta sono stato anche contento. Infatti ricordo che era in tarda mattinata quando ho riconsegnato le chiavi al proprietario. Sono stato quasi tutta la giornata in giro per negozi, in un centro storico, così a passeggiare, un po' così disperato da un lato, ma anche leggero, come se si fosse chiuso un capitolo importante, è come se ci avessi mille possibilità da quel punto in poi. Quindi, e perché tra queste mille possibilità un esperto di informatica, imprenditore, ha deciso, perché a questo punto diciamo proprio che cosa fai tu adesso, di imbarcarti? Sì, io non lo so come mi è venuta questa idea, ho sempre amato il mare come tanti, ma ho pensato che avrò bisogno di cambiare davvero, di andare via da un'esperienza brutta o insomma di dare sfogo a quello che era la mia curiosità di sempre, di vedere il mondo, di imparare nuove cose, di conoscere nuove persone. E così ho pensato che fare il marinaio poteva essere una ottima soluzione. Spieghiamo bene, tu il marinaio in sì. Pratica cosa fai? Che tipo di lavoro fai tu a bordo? Sì, io sono un ufficiale e sono il responsabile di tutti i servizi informatici e satellitari di questi giganti del mare. In termini tecnici si chiama IT manager. E quindi mi occupo di informatica, di far funzionare la enorme rete di computer di bordo, le decine di server, i sistemi di connessione satellitare per internet o la telefonia, quindi insomma io mi occupo di questo. Quindi hai usato la tua esperienza, sì. Però come hai cambiato settore? Io adesso sto pensando a quelli che ci stanno ascoltando e che si occupano di server e di computer, ma dentro una stanza, dentro un ufficio, al massimo dentro un open space. Come fa uno che si occupa di server in un'azienda a diventare, diciamo, responsabile informatico di una nave? Quali sono i passaggi? Allora, specifico che io ero assolutamente disposto a cambiare tranquillamente lavoro, mi sarei imbarcato come pelatore di patate o piuttosto che come cameriere, insomma, quindi la mia scelta era una scelta di vita ed è una scelta di vita, poi dopo magari più avanti ci torniamo. Per quanto riguarda quelli che giocano con i server, i passi sono abbastanza classici, canonici, devono semplicemente andare su internet, mettersi in contatto con compagnie di navigazione e inviare un curriculum, oppure in qualche caso anche telefonare dopo aver inviato un curriculum via email per chiedere un colloquio. Insomma, ma ci sono dei passaggi, degli studi, serve un brevetto, serve qualcosa? Per questo lavoro tecnico serve soltanto il curriculum e l'esperienza. Diciamo che prima però di mettere piede su una nave bisogna fare dei corsi, che sono corsi obbligatori e di cui si può avere informazioni sulla capitaneria di porto o sui siti delle capitanerie di porto, ma non è niente di complicato, ci vuole qualche mese di tempo. Nel frattempo uno appunto può mettersi in contatto con le compagnie di navigazione, si tratta di spegnere qualche incendio, si tratta di imparare come salvare una persona che sta annegando, cose del genere, insomma. Mi piace la leggerezza, si tratta di spegnere qualche incendio, chi di noi non ha spento qualche incendio? No. Ovviamente. Se... No. Senti, ma quanti anni avevi quando hai fatto questo cambiamento? Dunque ho messo piede a bordo per il mio primo contratto a 43 anni, cioè 3 anni fa, nel giugno 2007. Avevi famiglia, moglie? Sì, avevo famiglia, era sposato da 15 anni, una figlia di 14 e ovviamente un po' traumatizzati anche da questa scelta, anche però coscienti che insomma quello era un passo obbligato per... Era un lavoro come un altro, in quel momento avevamo bisogno di monetizzare e quindi diciamo mi sono stati vicino anche se era appunto una scelta abbastanza dura. E quanto stai fuori all'anno? Dunque, io adesso sono in partenza, parto sabato mattina per Copenaghen dove c'è la nave che mi aspetta e starò fuori fino agli inizi di maggio. Quindi i contratti sono abbastanza lunghi, per questo ti parlavo di una scelta di vita, non è un lavoro come un altro. Da Copenaghen poi dove vai? A Copenaghen faremo un pochino in Nord Europa e poi ci prepariamo per la traversata atlantica per il Sud America e quindi resterò fino a fine aprile in Brasile. Io ho sempre questa domanda a dubbio per quelli che fanno questo tipo di lavoro, ma poi tu i posti li vedi? Sì. Una cosa importante da dire è che questo lavoro, se fai l'ufficiale o se fai il pulitore notturno di moquette, è molto, molto, molto faticoso. Quindi se uno vuole fare questa scelta si armasse di tanta buona volontà, perché non è come l'hoverboard, non è tutto quello oro tutto quello che luccica. Però sì, assolutamente si vedono i posti. Io ho avuto la fortuna di vedere tantissimi posti meravigliosi e incontrare tante culture che mi hanno veramente arricchito, anche soltanto stando a bordo, perché a bordo abbiamo circa 40 nazionalità tra i colleghi che lavorano. Perché tu stai sulle navi da crociera, ricordiamo. Sì, io lavoro sulle navi da crociera, abbiamo insomma una media di 3.000, oltre 3.000 passeggeri e circa 1.000 persone di equipaggio. E senti, ma la parte umana, cioè sociale, il ritorno a casa, cioè tu quando torni dai viaggi, dove vai, come fai, come ti senti? Mi sento come un alieno, un po' straniero. Stare tanto tempo per mare in una comunità completamente diversa da quella tua, con nuovi amici, nuove relazioni, ti fa vivere in un altro mondo, no? O comunque in quel mondo. E quando torni le relazioni sociali si sono un po' allentate, gli amici insomma non sono proprio più tuoi amici, nel senso che non c'è più quella quotidianità. Quindi la vita vera diventa quella in nave. La vita vera diventa quella. Grazie, ok, grazie per questa storia, però ti sappiamo, sai Tom, che noi abbiamo diciamo una domanda rituale e chiudiamo anche con te con quella. La valigia e la zavorra. Insomma, tu di valigie e di zavorre te ne dovresti intendere, perché insomma il peso e i bagagli sono fondamentali nel tuo campo. Che cosa ti sei portato dietro? Allora, io porto sempre con me due cose. Una è la mappa del mondo che tengo appesa, che metto appesa nel mio ufficio sempre per sapere sempre dove sono, che non è sempre così facile. E un'altra cosa che porto con me è un piccolo salvagente con scritto cabina del capitano, è una cosa che appendo alla parete, la prima cosa che appendo alla parete quando entro nella mia cabina, giusto per... Ma è un portafortuna o funziona? Cosa? Cioè, è un portafortuna o un salvagente abbastanza grosso da infilare? No, è piccino, ma okay. Non è un portafortuna, è solo per personalizzare la mia casa per i prossimi 8 mesi. Cosa hai buttato? Qual è la zavorra da buttare via? Anche qui due cose, la nostalgia, perché altrimenti questo lavoro non lo puoi fare, e l'Italia, che è un posto che non mi piace più. Questo stile di vita è sconsigliato se soffrite il mal di mare sulla nave pirata delle giostre. Vi viene da ridere ogni volta che sentite dire «Cazza la randa!». Credete che sulle navi potrete lavorare sempre in costume e camicia hawaiana. Sapete arrivare ovunque, ma solo chiedendo indicazioni ai passanti. Pensate davvero che lavorando su una nave vi aspetterà una donna in ogni porto? E beh, questa è la differenza, questo è il problema, questo è il dubbio ogni volta che uno cambia vita. Quale sarà la differenza tra la cosa che mi aspetto, che mi immagino, la vita che ho visto nei film, le navi di Love Boat, di mare, profumo di mare, e la nave che poi io trovo sul serio, il lavoro che poi andrò a fare sul serio, la vita che quotidianamente per mesi e mesi e mesi farò una volta che mi sono imbarcato? Noi, come facciamo sempre, oltre ad aspettare i vostri commenti anche su Facebook, su Giro di Vita @radio24.it o per telefono, lo chiediamo a qualcuno che se ne intende. E se lo facessi io? E per questo a Giro di Vita siamo al telefono con Silvia Cagnone, che è direttore Global Recruiting della Costa Crociere. Benvenuta. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Allora, ha sentito la storia di Massimo, una persona che non giovanissimo e con un'altra carriera alle spalle ha deciso di imbarcarsi. Ci sono storie di questo tipo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che normalmente le persone che noi reclutiamo sono persone che hanno magari appena terminato il periodo di studio, persone che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, però capita anche di avere persone che decidono di cambiare vita, di dare una svolta e di fare questa esperienza anche a età un pochino più avanzata o comunque con una carriera professionale alle spalle. Quali sono, diciamo, i profili professionali nei quali magari è un po' più facile arrivare non giovanissimi? Diciamo che un po' tutte le posizioni che noi reclutiamo in questo momento, che sono circa una quarantina, soprattutto le posizioni di entrata, hanno la possibilità di prevedere all'interno del ruolo persone di diversa tipologia, di diversa estrazione, anche di diversa età. Faccio un esempio, magari non so, il guest service piuttosto che i tour escort, è un gruppo di persone che nel primo caso si prende cura dell'accoglienza dei nostri ospiti a bordo, per cui si parla di ricevimento, di ufficio informazioni, nel secondo caso delle escursioni che organizziamo durante la crociera, per cui ufficio escursioni. Si tratta di un team composto da 10-15 persone a seconda della grandezza delle navi poi, e dunque in questo caso all'interno del team abbiamo delle figure più junior, per cui magari dei ragazzi più giovani appena usciti dal percorso scolastico, formativo, ma anche persone più senior, per cui ruoli di middle management e anche di management, come per esempio il guest service manager o piuttosto il guest relation manager. Ma queste persone vengono solitamente da altre esperienze comunque nel campo del turismo, magari per di terra, o vengono anche proprio da lavori completamente diversi? Allora, generalmente le persone che hanno avuto un'esperienza nell'ambito turistico sono facilitate, perché naturalmente hanno già avuto modo di sperimentare il lavoro in altri ambiti, e noi ricerchiamo in questi casi, soprattutto quando si parla di persone che hanno una responsabilità anche di gestione del gruppo o comunque gestione degli ospiti in maniera più responsabile, cerchiamo persone che abbiano già avuto esperienza naturalmente. Però non è detto che non si possa trovare un caso in cui un ruolo anche di responsabilità possa essere ricoperto da una persona che magari ha avuto esperienze di tipo diverso a terra. Ecco, in questo caso qual è di solito, oppure anche per i ragazzi più giovani che lo fanno, qual è di solito la cosa che poi rappresenta il problema? Magari qualcosa che le persone non si aspettano, un aspetto di cui uno si rende conto solo una volta che si è imbarcato? Ma diciamo che noi stiamo cercando il più possibile, anche a livello di selezioni, di dare la maggior parte di informazioni possibili sulla vita di bordo, su quello che significa lavorare a bordo di una nave, che è un contesto molto stimolante, però molto particolare. E dunque cerchiamo di preparare le persone dando tutte le informazioni possibili. Adesso in particolare in costa, prima di imbarcare, c'è tutto un periodo di formazione, e è compreso anche una settimana di formazione di un corso aziendale che si chiama Compass Ready for Excellence, nel quale noi diamo tutte le informazioni sulla vita di bordo, sul prodotto, sullo stile dell'azienda, proprio per fare in modo che le persone non arrivino a bordo impreparate, perché diciamo che forse la cosa che in passato poteva dare più difficoltà era proprio l'adattarsi ad un ambiente completamente diverso. Per molte persone è stimolante, no? Perché, ma per altre magari rappresenta, diciamo, per altre può essere più difficile, soprattutto il fatto di vivere in un contesto completamente diverso dalla propria vita normale, dal proprio, diciamo, dalla propria routine, no? Che per alcuni così più avventurosi è proprio quello che cercano, no? Il fatto comunque di inserirsi in un ambiente multiculturale, di lavorare in team, di fare una reale esperienza di lavoro di team, di avere la possibilità comunque di viaggiare, di conoscere tantissime persone, è veramente un'esperienza molto formativa. Mi tranquillizzi un ascoltatore che tramite Facebook mi chiede: ma se per male ti fanno male i denti, c'è il dentista? Spero di sì. Assolutamente sì. Vabbè, ci sarà tutto uno staff a bordo, medico. Sì, assolutamente, dottore, infermiere, ospedale. Quindi imbarcatevi tranquilli. Ormai diciamo che gli itinerari d'oggi prevedono quasi sempre, almeno quasi ogni giorno, una fermata in un porto. Sono pochi giorni di navigazione, sì. Per cui in ogni caso c'è la possibilità anche di scendere a terra per qualunque tipo di emergenza, assolutamente. Io la ringrazio, era Silvia Cagnone, direttore Global Recruiting della Costa Crociere. Ma dove vanno i marinai con la loro giubba bianca? Sempre in cerca di una rissa, di un bazar. Ma dove vanno i marinai e dove andate voi se volete provare a lavorare in mare? Cioè, qual è il vostro progetto, qual è la vostra idea, se il mare è quello che vi attira, se il mare è il vostro elemento, se l'acqua è la cosa che vi fa stare meglio, no? 800 24 00 24, sentiamo Enrico, pronto? Pronto, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Enrico, io so che tu non vai a cambiare vita per lavorare in mare, ma proprio per viverci. Esattamente, il mio progetto è il seguente. Attualmente da agonista nel campo della apnea, che è una disciplina sportiva che in Italia ha sempre più appassionati, e nel campo anche della pesca in apnea, ho deciso di dare una svolta alla mia vita acquistando una barca a vela e di lunghezza tale da consentirmi di poter vivere all'interno. Ma tu che lavoro fai? Io sono impiegato statale, sono un tecnico di aereo ed elicottero. E lasci il lavoro per andare a vivere in barca? No, come fai? Allora, nel mio caso ho la fortuna di poter chiedere un trasferimento, nella fattispecie nella bellissima Sardegna, ove l'ufficio peraltro non dista che pochi chilometri dal mare, e in questo caso avrei la possibilità, in luogo all'acquisto di un appartamento, di dedicarmi, diciamo, alla passione della vela e anche di vivere all'interno della barca. Ah, quindi tu cambi non lavoro ma l'appartamento con la barca, come Don Johnson in Miami Vice. Hai anche un coccodrillo? No, quello no. Cioè, scusa, ma tu questo qua lo pensi di farlo tutto l'anno, d'inverno, col maltempo, con la pioggia, vivrai sempre in barca a vela? Scusa, in barca a vela. Diciamo che sì, l'idea, o meglio, la convinzione è questa, perché dobbiamo un po' sfatare la convinzione della barca come luogo umido e poco accogliente. Se parliamo di una barca a vela di lunghezza pari a 9-10 metri, dobbiamo immaginarcela come un appartamento dotato di 3 camere da letto matrimoniali, cucina, salottino molto spazioso, molto ampio, e oltretutto con delle spese molto inferiori alla gestione di un appartamento, perché si ha la possibilità di attingere l'acqua dolce e la corrente elettrica direttamente dal posto barca presso il quale si è deciso di lasciare. Quindi tu hai già fatto i conti, spenderai di meno che ad avere un appartamento? Assolutamente sì. Diciamo, l'unico problema, o meglio, l'unica accortezza in questo caso, se vogliamo entrare nello specifico, è legata alla, diciamo, non proprio difficoltà, ma alla cura dell'acquisto della barca, la quale non deve avere dei costi intrinsechi di gestione eccessivamente elevati e, essendo diciamo imbarcazioni di una ventina d'anni, quindi primi anni 80, perché tali sono le possibilità economiche personali, devono essere in buone condizioni, quindi non necessitare di interventi meccanici, nella fattispecie al motore, al piano velico. Ho capito, te la devi come l'acquisto di una casa, cioè te la devi, diciamo, cercare bene, devi capire, insomma, fare un acquisto ponderato. Beh, io ringrazio Enrico, che secondo me ha messo la pulce nell'orecchio a un bel po' di gente che potrebbe, se ce la fa, cambiare casa con una barca. Vuoi mettere, dire a una donna: vieni stasera da me in barca? Manuela, pronto? Sì, pronto, buonasera. Tu stai cambiando vita? No, io veramente volevo raccontare una storia che non è successa a me personalmente, ma a mia sorella e al suo marito. E che cosa hanno fatto? Loro, semplicemente il 18 gennaio del 1990, no, dicembre, scusa, sono partiti 6 mesi in barca a vela con i loro 2 bambini di 4 e 5 anni. Allora, ti dico proprio l'obiezione a cui ormai sono abituato in un mese e mezzo di programma: avevano i soldi, se lo potevano permettere, come hanno fatto? Avevano i soldi, se lo potevano permettere. E loro sono due architetti che si sono presi 6 mesi sabbatici dal loro studio e quindi hanno comprato, vivono tra l'altro in Costa Azzurra, quindi hanno comprato una barcavela di 11 metri abbastanza bella, insomma, per quanto le posso capire io, e poi l'hanno rivenduta in America e poi sono tornati in aereo, perché il viaggio di ritorno hanno preferito farlo normale. Ah vabbè, questa però è un'ipotesi, partite con la barca, vendetela lì e tornate con i soldi della vendita. Noi chiudiamo il Giro di Vita di oggi, ringrazio Fabrizio Entonti, ringrazio Alessandro Cheppini che si occupa della parte tecnica. Giro di Vita, @radio24.it, o cercateci su Facebook, torniamo domani. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.